Perdonatemi, Sir Percival, ma devo notificarvi che avete oubliato il vostro iPhone dietro alla Smart TV. Tu infatti lo sai che non puoi fare quel che vuoi. Infatti tu lo sai che siamo liberi quanto i vuoi. Anche se ovunque, telecarta e anche in rete, mi dicono che certo posso fare ciò che voglio. Ormai io non ci credo, vedo bene che c'è un broglio. E certo anche voi lo sapete, vedete. E viviamo tutti in un medioevo tecnologico, dove ognuno crede che essere schiavo sia ben logico. Scienza dogmatizzata, contante virtualizzato, ci illude che sfruttare possa essere sensato. Viviamo tutti in un medioevo tecnologico, dove ognuno crede che essere schiavo sia ben logico. Crediamo di poter fare scegliere ogni cosa, ma possiamo solamente lavorare senza posa. Già che poi c'è l'amore, oggi libero per tutti, e magari ci credi che ne puoi avere i frutti, ma le convenzioni che hanno tolto ed abbattuto, mi pare che le abbiano anzi moltiplicate. Amare ora è un crimine, comunque lo facciate, e certo non sono il solo abbattuto, adesso che... Viviamo tutti in un medioevo tecnologico, dove ognuno crede che essere schiavo sia ben logico. Scienza dogmatizzata, contante virtualizzato, ci illude che sfruttare possa essere sensato. Viviamo tutti in un medioevo tecnologico, dove ognuno crede che essere schiavo sia ben logico. Crediamo di poter fare scegliere ogni cosa, ma possiamo solamente lavorare senza posa. Se soltanto potessi dire tutto quel che ho dentro, ora che ho capito che va espresso il sentimento, faccio una fatica che bestiale dire niente. Ogni tanto penso se non parla può scoppiare, silenzio compressore che perfora e sa scavare. E certo ormai per tutti è ben patente che... Viviamo tutti in un medioevo tecnologico, dove ognuno crede che essere schiavo sia ben logico. Scienza dogmatizzata, contante virtualizzato, ci illude che sfruttare possa essere sensato. Viviamo tutti in un medioevo tecnologico, dove ognuno crede che essere schiavo sia ben logico. Crediamo di poter fare scegliere ogni cosa, ma possiamo solamente lavorare senza posa. Viviamo tutti in un medioevo tecnologico, dove ognuno crede che se schiavo sia ben logico. Scienza dogmatizzata, contante virtualizzato, ci illude che sfruttare possa essere sensato. Viviamo tutti in un medioevo tecnologico, dove ognuno crede che se schiavo sia ben logico. Crediamo di poter fare scegliere ogni cosa, ma possiamo solamente lavorare senza posa. Vi ringrazio della notifica, Messer Scudiero, ma non credo che in battaglia un nobile cavaliere debba portar seco un iPhone. Il cavaliere più nobile possiede un nuovissimo iWatch.